sta bruciando pulito, adesso ti ha messo questa specie di riverbero. Guarda, vedi, ho sbagliato, là. L'ho toccato senza volere. Vabbè, adesso questo qui è il Sadelta Master Plus, adesso io ti provo anche il Super Sidekick a vedere com'è. Adesso poi vi difendo, vado a fare la prima, non ho fatto il secondo vaccino ieri. Ah, vero, no, io non la faccio. No? La forza pubblica deve venire a prendermi, la stabilì, e gli esperimenti se li fanno tra di loro. Vediamo nel frattempo se c'è qualcuno che vuole entrare qua sul canale 10. Vabbè, io la pensavo come te, questo qui è il Super Sidekick. Come va? Non ho fatto differenza io, belle tutti e due. Prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5. No, parla normale, no, senza parlare in inglese. Mi sembra per capire se è naturale la voce. Non sei uscito di radio già. 1, 2, 3, prova a radio. Un attimo. Prova a radio, 1, 2. Gianni, non stai uscendo di radio, tocca a PTT meglio. Ciao Franco. Sei basso, appena, impercettibile. Sembra che non stia amplificando con la radio. No, già non si sente niente. Ti sento nel fondo, ma proprio piccolino. No, già sei basso. E dall'inizio sta uscendo benissimo. Poi hai toccato qualche cosa e non sei uscito l'importante. Cioè di modulazione. Adesso appena ti sento, ma piccolino. Guarda a vedere ora. Adesso già va bene, vai se tu che non hai infilato bene il coso, il microfono. Niente, non sei uscito neanche adesso. No, non sta uscendo già. Vai fra tu. Franco. Ciao Robè, buonasera. Buonasera. Come stai provando il microfono anche tu? Ah, lì vanno bene i microfoni. Mi ascolti bene, sì? Perfetto. Questo è il K. Ma negativo. Questo è il Magnum. E con che microfono? MD+4. Bellissima, sta uscendo benissimo. La radio, sì, va bene. Ottima, perfetta. Gava gava. Non sembrava neanche un MD+4. Perché? Perché è troppo bella la radio, non è metà. E dimmi perché fa? Ciao, buonasera. Ciao Gianni, buonasera. Sto facendo difetto su Presidi che non esce di radio. Non so cosa dici, quel microfono piatto qua e va bene, lo metti tu e non funziona, non so. Scusa, è questo perché funziona? Cioè non è l'apparato mio, l'impianto mio, se funziona uno deve funzionare anche l'altro. E se io lo metto qua, quel microfono funziona alla grande, come mai? Non lo so. Guarda, lo vendo se lo vuoi. Oh, io ce l'ho, non me ne faccio niente. Gianni, come stavi muovendo? A momenti funzionava, a momenti era basso, deve esserci qualche connettore dentro, qualche pin interno che si tocca uno con l'altro. No, te lo dico io che cos'è, è il potenziometro, l'ho abbassato, l'ho alzato e come l'ho abbassato non uscivo più in radio. Poi l'ho alzato, mi sentivi poco, ma uscivo male. Allora sostituiscilo col potenziometro, tanto già si trova, è una resistenza variabile, quella lì basta mettere di quel valore lì, prima prova con un po' col CRC, con lo sblocca contatti, se non lo sostituisce già è una fesseria quella. Sì, l'ho già sostituito Franco, ma sta facendo di nuovo difetto, l'ho messo una seconda mano e andava bene. Perché stavi uscendo benissimo, poi di colpo ti sei bloccato, poi stavi uscendo dal fondo, si sentiva piano sotto. Vai di nuovo fra. Kappa, non lo so. Gliel'ho cambiato da poco quel trigo, quel potenziometro lì, robè. Poi l'avevo provato qua e andava benissimo. L'ho tenuto in prova un giorno, poi gliel'ho ridato. Tutto qua. E ma furia di usarlo fra è deceduto. Cosa ne so? Cosa vorrei dirti? Per carità, questi microfoni ogni tanto ne hanno uno. No, questo gli ho cambiato la capsula, robè, e il potenziometro nuovo gli ho messo, gli ho fatto una modifichetta. No, è chiara la modulazione, quella di Gianni è un po' più forte, però è pulita, chiara, non posso dire niente. Ciucchicciu. Mia è lui, avanti. Ehi, buonasera. ciao Rizzinti. Saluto che a tutti. Buona vita. Si sta bene? Via. Un po' di freddo ho preso ieri. Ho trovato l'amico, mi ha chiesto un baracchio, sono salito con la spesa in mano, cazzo veloce, tutto sudato, vedo. Quando sono sceso giù, alla perfetta erano già spariti. Perché evidentemente sono passati i vigili urbani e hanno pizzicato con la birra in mano. E invece a me mi hanno pizzicato sulla BDV i vigili urbani. Mi hanno inviato 3 punti alla partenza e più 120 euro di multa. Perché stavo andando 20 km in più di quello che poteva andare. Figurati. Allora, mi sono fatta tutta correndo ieri, scendendo. Ho preso freddo, non mi sono cambiato neanche la maglietta, poi stamattina. Quando mi sono alzato c'è buonanotte, mal di gambe, mal di braccia e poi da cervicale. Adesso martedì devo fare questo vaccino, speriamo bene. Simona ha già fatto la prima dose, è tutta dolore, mi ha dato un po' di febbre, mi ha dato ed è tutta dolore, braccia, gambe, non riusciva, sembrava immobilizzata. Io ieri ho fatto il secondo vaccino, non riuscivo più a muovere il braccio, mi faceva così male, ma un dolore fortissimo, alla fine ho dovuto prendere gli occhi per riposare, se no non avrei dormito di notte. No, io non ho dato niente a Simona, la verità, non gli ho fatto pigliare nessuna cosa, è stata tutta la notte, così a caldo non sentiva nulla la mattina, ma la notte non riuscita a riposare, è stata tutta la notte sveglia, capito? Speriamo che non mi pigli male così anche a me, se no sono fregato, già mi fanno male i muscoli delle braccia e tendini, eccetera, eccetera. Speriamo bene che non mi faccia quell'effetto lì, se no mi devo pigliare qualche antinfiammatorio o qualcosa per i dolori. Ma tu fatto la realtà? Ma a te lo devo fare, mi devo chiamare il medico, devo scendere giù alla promocamera e farlo. Perché mi ha detto, dice, ma a te Dio giovedì ti chiamo, Antonio, mi ha detto, dice, ti faccio sapere qualcosa lunedì, e te lo faccio di sera, mi ha detto. No, a me mi hanno chiamato al centro diabetico, mi hanno chiamato da lì, mi hanno detto che dovevo andare l'indomani a fare il vaccino, se me la sentivo, e ho detto, non è che siamo molto d'accordo, che vaccino è? Michael Pfizer, e allora sono andato perché c'era la StraZeneca, non aveva va. Ah beh, io gli ho fatto fare il Pfizer a Simona, se mi rifà la StraZeneca questo dico no. Mi fai l'altro a me, se no prendi il piede me ne sta andando, dico, anche a piedi, non me ne frega niente. Dico, mi fai Pfizer o Moderna, quello che ti fa, ti piace, basta che non sia la StraZeneca. Ah, gente, su alla radio uno se ne ha fatto 2 di vaccini, per non sbagliare. E c'è che se ne ha fatto anche 5, tutti in un colpo, ma com'è non è che il Badog? Per sbaglio, l'unico che è capitato ne ha fatto 5, tutti in un colpo. No, io parlo 2 marche diverse, dite, io mi voto 2 marche diverse. Sapete. E come è possibile se chiamano loro? Come ha fatto questo qua? Chiamano loro solitamente. Ma no, qua sa, no, in continente è successo. Ragazzi ha fatto qualche giro vizioso questo. Chi fa di prima qui va? Dici così sono più sicuro, mamma mia, io sono contrario assolutamente, poi chi se lo vuol fare se lo faccia. Sì, sai cos'è il problema? Io l'ho fatto più che altro perché nel caso dovesse lo chiamarmi all'ufficio di collocamento, se non hai fatto il vaccino lo. Capito? Non ti prendo a lavorare, me ne prendo il reddito di cittadinanza, quello è il problema, mica, capito? Solo per quello lì l'ho fatto, anche lo sto facendo, in modo che non mi trovino scuse, hai capito? Ognuno è libero di farlo, io non posso dire niente, io mi viene la forza dell'ordine, sotto la puntata la pistola per farmi un fare, se no manco musso. Sì, vabbè, ma tu che viaggi lo devi fare, anche se no non viaggi. Già vediamo com'è la situazione, tu mi fai una dichiarazione che ti prendi tutte le responsabilità di tutti gli effetti collaterali, così si può fare, ma non te lo fanno loro, ti fanno firmare, l'hai visto cosa ti fanno, che non si assumono responsabilità, io gliela faccio al contrario invece. Vabbò dai, io vi lascio la porta di giù il cane, ho freddo, adesso mi misuro la temperatura, non ho febbre, va bene, ci sentiamo ragazzi, statemi bene, interessante che stia andando bene, microfono, lascio questo e buonanotte, tanto questo qui è quello che ha dato per questo apparecchio, non c'è nulla da fare. Maria, ok, ciao Gianni. Avanti, c'era anche Franco, avanti tu Franco, i saluti. Ciao Gianni, buonasera, buon tutto, ce la riascolto nei prossimi mesi. Ciao ragazzi, ciao ciao Franco. Ciao Gianni, ciao ciao ciao ciao. Vabbè, a tua. Ciao Gianni, ci sentiamo, alle prossime. Allora Fra, come andiamo? Io ho visto cosa, ho visto altro due whisky, te lo ricordi, il fratello di Paola, Libellula in base si chiamava. Ah sì sì, era previsto. Ah, la perfetta era, mi ha detto, mi ha fatto tanto bene, non mi saluti più, ha detto, ero distratto, la verità. Ho detto, cazzo, dove è lo whisky? Ho detto, oggi fatto qua, bevendo la birra, con un paio di amici suoi, e si hanno mangiato anche la pizzetta. Ho detto, vedi, sono qua, con degli amici, mi ha detto, dice, per cui avevo un baracchino, ho detto, che baracchino serve? Mi ha fatto un 3.900, ho detto, non sei macco. E dopo 2009 ho detto, intorno ai 200 mi pare viene, detto, su internet. Se qualcuno ce l'ha, gli ho detto, non te la vende, questo è poco, ma sicuro. Ma infatti non sono tutti che li vendono quegli apparecchi, chi ce l'ha se lo tiene qua. Eia. E cosa Fabio che fine ha fatto? Non lo so, non l'ho più sentito. Gli ho mandato un messaggio per la questione del lineare, mi ha detto che si stava sistemando il laboratorio e mi ha detto che ci aspetta un po' che mi sistemo il laboratorio e così ti piazza questo relè e poi fai la prova. Mi ha detto e basta. Non ho più, sono un paio di mesi che non lo sento. Io l'avevo trovato da quello quasi nuovo di fronte alla piazzetta che non l'ho mai usata, l'hai visto quel negozio che c'è? Eia. L'ho trovato di lì e poi un'altra volta l'avevo visto, ci siamo guardati in faccia vicino a casa mia, nella cartoleria dietro casa, ci siamo guardati come per dire, ma noi riconoscimo, perché eravamo tutti e due con la mascherina, e tu che fine fa? Ma io sto parlando tanti mesi fa. Magari stava facendo dei lavori, capito? Niente di strano. Già rientra qualche volta, penso, non lo so, adesso se me lo ricordo questi giorni di telefono, al limite lunedì o martedì, da, e così vediamo come sta, come non sta, se rientra paracchino, se non rientra. Ehi, ho sentito l'altro giorno, avanti ieri mi ha chiamato, te lo ricordi, la Salvatore Maestrale? Eia. Che in auto, ci avevano fatto una bella chiacchierata, perché non entrate su CBTalk, io ci sono, me lo dite, Mario mi mandi un messaggio, vabbè lo dico anche agli altri. Io CBTalk ce l'ho, capito, è solo da poco non lo accendo, è la verità, ce l'ho nell'inserito del telefono, prima parlavo nei 40 canali che ci sono. Poi vabbè, nei canali gli altri è un casino, 30 persone, 20 persone, quando ha fatto il coso, ha chiamato, ci voleva a cazzo il coso, dovevi stare lì con il telefonino in mano, ti addormentavi pure. Ieri notte l'ho acceso per curiosità, ma sempre un giro di base da Cumine, è allucinante, c'era una tipa ieri, ce la sentivi parlare, proprio come sta cercando, e proprio cercando, anche facendo discorsi un pochettino a coso, allora va bene l'italiano, non era una sprovveduta, la sentivi parlare, era un po' furbacchiona, perché ha tirato fuori un po' di discorsi un pochettino spinti, dai, parlando di tette, di cose del genere, che ci aveva delagato, deve essere l'amicizia su Facebook, a questo qua, ha detto, ma sei tu quella volta, sì sì, di lì ce l'avevo belle piene perché ero incinta, adesso le vorrei più grosse come quelle lì perché piacciono agli uomini, un bel di discorsi, ha detto, sta diventando tuo iami, neanche lì sta diventando, allora, io ce ne sono 3 o 4 di ragazzi, di dove, visto che parlano abbastanza schiette, sono più che altro napoletane, siciliane, E poi quello mezzo pizzicato, l'hai mai sentito, quel tipo Tamburello, mi sembra che si chiama? Ah, l'ho sentito già, mi ha chiesto un giorno, mi ha detto un giorno, no, stavo parlando con lui, Alessio ti potrei conoscere, uno di questi giorni vengo in Sardegna, gli ho detto, vai che, gli ho detto, ce l'ho male a fare, vai, gli ho detto. Ma poi se non ci fosse stato scritto il nome, io pensavo fosse una donna, c'ha una voce, è un bel femminato. Ehi, c'ha proprio la voce della donna, ma la donna, se non sai che è maschio, guai, capito? Ci fai appresso, ci vai, a notte pure ci vado solo l'alfa. Ma io tu dice, sono maschio, purtroppo dice la voce, ce l'ho così, non ci posso fare niente, ha detto, capito? Vediamo, vai fa. Vediamo se qualcuno vuole entrare su qua canale 10, ancora un paio di minuti, poi vado a mangiare che si sta ribollendo lo stomaco. Sempre vuoto, anche io l'ho acceso, non vedo nessuno, un attimino è entrato coso. E tu mi pare che c'eri e doppio room, 10 minuti. Ci ho fatto un paio di collegamenti col Portogallo e altri stati, però c'era un po' di propagazione brutta ieri. Quando, stasera? No, oggi no, oggi non sono entrato niente. Ieri sera, ieri non tardi, diciamo, verso le 7 e mezza. Ah, ieri era tutto preso di FM, di tutto vera ieri, era un casino, vera. Ah, sì, poco fa c'era la laterale sul 36-37, una cosa del genere. Però quando è così che c'è un sacco di tedeschi non valeva ancora la pena entrare, uno sa parlare, l'altro parlano, non si capisce una fanculo. Aspetta un minuto che arrivo subito e ci butta la pasta se l'acqua sta bollendo. E io. Ora c'è qualcuno ancora qua, è arrivato? Dimmi Robè. Cos'era tu? Robè, dimmi. Io non c'ho il tuo numero, se non ti avrei mandato una cosa. Dimmi che cosa. No, l'ho chiamato, ho fischiato il buco. Già lo so che hai fischiato. Tu che non c'ho il tuo numero, se non ti avrei mandato un video. Se lo faccio avere, facciamo del fatto avere da qualcuno. Di Claudio, ce l'hai tu il numero? Sì. Tramite Claudio, glielo dico a mandartelo lui. O diglielo direttamente a Claudio. Diglielo se me lo manda. O a Giulio. Caffa, penso che me lo mandi Claudio, tranquillo. No, dilli che te l'ho dato io. Io alle persone che voglio lo do, sennò che ho dovuto cambiare il numero di telefono a chi cacca mi chiamava a tutti i loro della di e della notte. Caffa. Ma poi per questioni inutili di lavoro, di cose, infatti a me quando mi chiedono ufficiale mi dice il cellulare, no, non ero dubbio di cellulare. Già sta esagerando la gente perché qualcuno per il fatto di WhatsApp, per dire quando devi mandarti documenti, roba di assicurazione, me lo devono mandare per portare su WhatsApp, però qualcuno poi è capitato che mi ha chiamato per altre cose, oh, ma mi posso portare, dico, ma perché non chiami all'orario di lavoro in officina e chiami al numero fisso, anche bisogno di chiamare la notte. L'altro giorno mi ha chiamato uno alle 10 di notte, vabbè, non ne potevo fare a meno, stavo rientrando la Ulbia e mi ha chiesto una cortesia se potevo andargli, siccome gli si è scaricata la batteria e lì domani dovevo andare a lavorare, mi ha detto, che puoi trovare una soluzione, aprire, vengo io, non mi potevo fare a manco, se no l'avrei detto, ma va a cagare, ma ti pare mi chiamare alle 10 di notte? Io ho giocato per Ido, mica ognuno va la vita privata, adesso gliel'ho detto, vediamo se mi risponde, se me lo va. Perché questo è, cosa mi devi mandare? Ah, cosa vedda. Ma che non c'è la roba bucacciona? No, è per roba mia. Vabbè, no, perché già qua c'erano un paio di amici, ogni tanto mandavano i video strani, ho detto, la sua bici non mai mandare più perché non mi piace. Se me ne va bene, dammi la bella due, non vado a ficcare, perché magari ti capita per sbaglio, uno prende il telefonino e guai. Capa, sì. Sì, che sveglia tutto. Oh, yeah. No, io no, non mi mando le cose. Non mi interessa, dici così, mi dici già le balle. No, vabbè, diciamo quando sei in compagnia per scherzare e ridere, ma non è che poi me le mandi. C'era uno che te l'hai venuta, mandava anche che cosa, detto, finito, non me ne mandare più, perché io non ho nessun blocco nel telefonino, se mai lo prende in mano mia figlia, anche lui non faccio brutte figure, a me non mi piace, detto, mandale ad altri, a me non me ne manda più. Io non ne mando e non voglio che me ne mandi. Lo so, cioè, è cosa di mamma, ma lo si abba i denti, dice. Magari non mi dice niente, però è sempre una brutta figura, mi piace. Era Ghito, gli auguri, guardi, e ti mandava prima un'immagine tutta la serie, e poi ti diceva la sorpresa al sotto. E dite di girarsi una manico di paracqua, dille. Già lo so, già l'ha avvisato, ma non me ne ha più mandato. Ma c'è un po' di gente che le fa queste cose degli iscritti, poi io quando le persone non do confidenza, quello che mi dà ancora più fastidio, finché dici per scherzare, siamo amici, proprio amici, lo posso capire, ma molte volte te lo mandano niente di questi conoscenti, di quello che ti fa confidenza, da che parte? Appunto, la gente si piglia troppa confidenza. Ne conosco tante, altre persone che sono convinte di essere amici, per me sono conoscenti e se ti danno troppa confidenza, infatti. Buonasera. E a lui, Torino, tu sei? Cappa. Cacca, ma comare, mi ho sentito l'altro giorno dopo chissà quanto, adesso di nuovo, mi hai sentito, ciao Torino. Ciao Roberto, stavo ascoltando. Sono sdraiato, per il fatto che questi cavoli di Putin sono ancora male dietro. Quello che avevo fatto un messaggio era sotto lo benico, non tanto, ma dietro dove il curico, cavolo, sono dell'effetto. Comunque hai ragione, vabbè, anche io, anche se adesso solo, ripeto, ma non mi piacciono, non mandano queste cose qua. Io ripeto, ho il tuo numero, quello che non ti ho mai mandato nulla di certe cose, perché innanzitutto, vabbè, confidenza ce n'è poca, però ti ritengo un amico. Ripeto, io l'amicizia ci tengo, diciamo persone serie. Confidenza fino a un certo punto, diciamo io, confidenza, queste cose non le manderei neanche, perché non mi piace. Comunque ciao anche a Tony, ripetilo per me. Cappa, ciao Tony. Tony non andava bene, cioè, magari sai, ve la pianta da doia, ti vedi che c'è cose, ma lo sai che c'è cosa, è depravato poi il ciubizzino. Cioè non va bene, dai. Non va bene, no. Ripeto, telefono mio ce l'ho portato in mano, viene mia figlia, viene la mia moglie, viene l'amica mia, se il telefono posso anche prendere, non c'è problema, capite che io sono in bagno, freddo di qualche. Ma sono il tipo che io non faccio queste cose e sono come Roberto, e non vuol dire che me ne mandano, perché non è giusto, non va bene, bisogna essere seri nelle cose, avanti Roberto. E certo, poi ci sono gente che si divertono, io ne ho amici che se le mandano e si fanno a poco, proprio se le mandano a Padura, però a me non mi piacciono. Preferisco che, cioè preferisco, dico, no, la Sabilli, c'era un tipo, anche due tipi amici, dai, conoscenti, non amici, conoscenti, ho detto, basta, non mi manda più, perché a me non mi interessa, poi se me le voglio guardare me le guardo io, ma quando voglio io, non devo andare a avere le sorprese, poi molte volte ti suona, siccome il mio WhatsApp mi ha messo una suoneria che si sente abbastanza, cazzo, poi andare a vedere, mica c'è il coso, ti prendono il telefonino, mica è arrivato un messaggio di WhatsApp, cazzo, e poi, vabbè, da qualcuno e fa brutte figure, e non è bello. Non è bello, no, che figure ci fai? Ce l'ho non penso che piace a molte persone. Se sono delle persone che piacciono queste cose, vengono, cioè, vengono tra di loro. Ok, io sono una persona che queste cose non le ho mai fatte, no, infatti a me chi mi manda una cosa del genere senza aver detto niente io, perché sa che non mi piacciono le partenza, e se dovessero mandarti blocco immediatamente. Poi se mi chiamo hai bloccato, sì, ma di questa porcheria non mi va bene. Se lo che ti sblocco non le mandare più, sennò poi ti blocca anche il mio telefono e poi anche il mio telefonare. Il mio telefono fa anche quello, tutto, quindi. E vabbè, sono persone, non lo so, forse io perché, ripeto, ho una certa età, la penso così, ma non penso perché tu sei più giovane di me, la pensa che tu uguale. No, non mi faccio facile lui, nel senso, non mi vergogno, però mi dà fastidio, io siccome sono una persona abbastanza di queste cose, non so di chi ti fa questo genere di cose, non mi vergogno, nel senso, non mi faccio facile, però dico, a me non mi piace, ma che me ne mandino, e non è, soprattutto non le mando, non le ho mai mandate io di queste cose, e quanto uno che la mandate, ha detto finiscila qua, perché manda altre persone, a me non mi interessa, soprattutto non sono conoscenti, neanche amici, ma te l'ho fatto cugnato, una battuta, uno scherzo, a me ti fa la sorpresa, non puoi accettare se non a un certo punto, ma sanno che non mi piace, per cui non me ne mandano neanche loro. Ok, di nuovo Antonio. A me per una persona che mi stava rompendo le scatole, no. Cioè ho lasciato perdere, però mi dava fastidio, no. Non va bene, cioè ogni cosa tu mi mandi tutti quanti che c'è cose, non fa bene, soprattutto un giorno uno per una battuta qua, ci sono uscito di Ivrea, ci sono uscito per una battuta maldetta, anche quelle cose bisogna evitarle. Abbiamo chiarito, abbiamo, però nel frattempo siamo usciti di Ivrea senza averne colpa. Non c'è che devo chiedere qualcosa a Roberto. Dimmi, siccome tu sei già nel campo, diciamo in giro, sai molto di queste cose, allora io ho avuto una piccola disgrazia, diciamo, la macchina mia purtroppo ha portato già faccia a carrozze, ho versato tutto quanto e mi ha lasciato a piedi. Il meccanico infatti mi ha detto non è come più aggiustarla, cioè è gravicchia, troppi chilometri, eccetera, eccetera. E quindi sono rimasto incasinato, e sto cercando la macchina, ma poco da dire proprio, perché io a settembre vado in pensione, a ottobre ho il TFR, me la voglio comprare nuova, e a me fare di nuovo, diciamo, comprare la macchina con un tot di lire, di euro, e più anche il passaggio, eccetera, eccetera, posso salvare per il passaggio, però a spendere molto, molto, molto non mi conviene più, capito? A spendere un 400-500 euro, vabbè, per la macchinetta, vabbè. Perché andare in campagna, cioè abitare in campagna come ho detto io, andare proprio di spesa, quello e quell'altro, io ho chiesto un po' di amici, però ancora. Se ti dice capitare qualcuno che si vuole distare dalla macchina, vabbè. Guarda, c'era, non so se l'abbia data, non so se ti interessa, una 147, la cavallo 400 euro, diesel, GTD, il motore è perfetto, molti chilometri perfetto, la macchina ha qualche colpettino di carrozzeria, però il motore ha un gioiello, che l'aveva fatto un sacco di lavori, sospensioni, gomme, eccetera. Se non l'ha data ti faccio sapere, Tony, perché non è facile adesso trovare macchinettine, è più facile trovare macchinette un po' grosse di quelli che non ne hanno fatti nulla, devono versare per comprarsi la macchina nuova. Però le utilitarie è molto difficile, se vuoi una tipo una 1 macchinetta è così, è un po' difficile trovare. Ma cos'è? 1900 quella lì? 1900 GTD. Lo sai quanto costa il passaggio? Costerà 400 euro. Affa, perché per la mia ha speso per 500, che ho vendito tutto Molise. No, lo so, forse di più di 400, non sto dicendo per sé, perché ho pagato quello di mia figlia dell'appunto 1200, ma io ho pagato 316 euro l'anno scorso. Sì, sì, 1200 è una spesa del genere più o meno. Ecco perché ho fatto il conto che non arrivo neanche a 1000, giustamente. Ripeto, 1900 è già alto, capito? No, la macchinetta volevo provare, se l'ha provato. Ma sono 1900 comincia a essere già pesante. E più infatti mi sto arrangiando, perché mi sto arrangiando, grazie a Dio, mia cugina viene e mi porta a fare la festa, a fare la vista, eccetera, eccetera, medicamenti ripunti. Adesso niente, l'intenzione è di rientrare il 25 a lavorare. Però giustamente devo andare prima dal dottore dell'azienda e visitare, guardare se possiamo entrare o meno. Io mi auguro che questi punti scompaiano, cavolo. E io non ho ben fretta, mi raccomando, perché sulla salute non c'è da scherzare, soprattutto quando hai avuto delle operazioni e cose del genere. C'era qualcuno che ha messo un colpo importante quando stavi parlando tu, non so se l'hanno fatto per sbaglio o che cosa. Avanti, chi vuole entrare? No, Robè, l'ho schiacciato io, tranquillo. Non ho fatto apposta, ho dato un colpettino così, ho dato, capito? Ok, come non detto, no, perché l'altro giorno c'era il portantista, dai. Ok, come non detto, già siamo in armonia, allora non c'è problema. Di nuovo a te, Antonio, puoi farà girare per Tunino. KK, no, stavo accendendo questo per farlo andare un po', che però tenerlo fermo. Come è andato il segnale, Robè? Più o meno non sempre 9.30 io ti vedo a te, poi se sei 9.31 o 9.29 sei sempre intorno a 9.30. Kappa, dai, è letargo, era. Adesso facciamo andare un pochino, là. Già spinge, di radio sei più forte di prima. Di nuovo a te tu. Niente, io ho sempre qua la matova 5 a piazzare e c'ho 8 metri di palo da mettere, però se non sto bene mi piace. Rimane chili, si può fare pure la ragnatella, me la fotte nulla. Mi sono comprato per partire 5 belle tavole, belle le vigatte, le ammette, ma belle 2 metri per 40 per rifarmi il mobile per mettere sulla stazione, la farò con tutti i piani. E niente, sempre lì, non, se quando non sto bene non posso fare niente, c'è un bel lavoro all'estratto. E infatti quanto mi dà fatica, sai quante volte manco baracchina c'è, vabbè, mi guardo fuori televisione, metto la parte, ho mettendo qualche parte di idrolitica e poi mi addormento già, anche con la televisione accesa. Questa volta non era una passeggiata come la prima operazione che ho avuto, questa era pesante veramente, tu per 7 ore in sala operatoria, per carità, quando mi sono svegliato, non te ne dico. Sì, lo so, purtroppo quando vanno fatte queste cose ben falle, mi auguro che ritorni tutto tranquillo, nel senso che i problemi che avevi li risolvi, penso di sì, se l'hai fatta vuol dire che c'era il giusto motivo. Sì, adesso cammino, prima non camminavo, prima facevo 3 passi e dovevo sedere, perché dovevo fare tre punti che addirittura piangevo. Ho detto no, io non voglio andare in pensione così, detto, no, e poi sono andato a operare per questo. Mi hanno allargato il canale perché dovevo farlo unirmi, praticamente era stretto, faccio vedere le stelle. Sì, adesso sto in piedi, cammino, e dice, tu pensa cosa ho fatto la prima volta? Sono andato, quando ho versato la macchina a Marcito, e da l'ho fatta a piedi fino a fuori, sempre camminata. Addirittura, ti auguro che ritorni come ci avevi 30 anni, tranquillo e pulito, ma anche di meno, a 20 anni, perché a 30 anni ti hanno i dolori. Ti ringrazio, Rompe, avanti a tutti. Ci vuole pazienza, ci vuole. Piano piano, cosa vuoi fare? Un mezzo e mezzo senza fare sforzi meno l'altro. La panina l'ho fatta, se non vedi troppi, colpa la calza poi che parli a campo a carizzare. E vabbè. Andrà bene. E quindi niente, sono giù della portante, ma ancora portante perché ci sono qua. Ogni tanto infatti. Purtroppo. Ma è una malattia incurabile, dai. Certo, iniziale. Ma quando vai a fare questo tranquillo, anzi dico a forza che entra, già da lui c'è più giallo, al macro lo entra, rimane in casa, chissà, se le mani se le mette in tasca. Vabbè, purtroppo io dico più che altro ignoranza, perché non posso dire altro, perché imbecille o sono ignorante, le cose sono quelle, perché una persona grande di età, lo posso capire un bambinetto, un ragazzino, così per scherzare, ma alla fine si stuferebbe anche il bambinetto, secondo me, ma è bello che lo fanno anche gli adulti, e questa è la cosa più brutta secondo me. Cosa ci vuoi fare? Non siamo nella mente, diciamo, di queste persone, non ho capito il perché, se questo è un gusto, dici meglio un gusto ci sto malanima, all'anima, non ti piace il prezzo, sposta di canale, guarda la televisione, telefona una persona, fai quello che vuoi, ma niente. Maracchino è bello per chi non sa usare, scambiarci due chiacchiere, scambiarci anche le idee di certe persone, eccetera, poi amici, non amici o nuovi amici, è una cosa bella, se la gente ancora non ha capito, vanno a studiare che forse è meglio. Purtroppo c'è molta falsità, molta invidia, gelosia, eccetera, eccetera. Io la radio la vedo, la sera mia soltanto l'officina, mi attendo, se c'è qualcuno mi faccio due chiacchiere, se mi piace quelli che stanno parlando rimango, se no dico, beh ragazzi, adesso vado a fare altre cose. Così, non deve essere una malattia di ghidi, di gelosia, che quello sta parlando con quello e non si parla con l'altro e non entra. Troppe persone che fanno così. Io, da me, tutti i difetti, ma a me non me ne ha potuta di gelosia e di invidia. Quello che c'ha quell'altro, c'ha quella radio, quell'altro c'ha quello, tu c'è meglio di me, la radio mia non serve, eccetera. Queste cose da parte mia non esisteranno mai. Me la giocate molto più importante di cose. Ma guarda, io ho Messia, tre apparati nuovi, qua due vintage proprio, belli, e anche un Cobra che ho fatto scambio con Gianni, ma ripeto, non ho immaginazione niente, funzionano tutti quanti. Ho messo, ho detto, quando mi rifaccio il mobile come siete, ce lo metto dentro e poi userò uno o userò l'altro. Ma ripeto, se uno migliora, io sono l'uomo, più felice al mondo, non importa niente. Io purtroppo dopo questa operazione qua, il baracchino manco non volevo sentire. Mi dava fastidio solo sentire il QRM. Se accendevo, lo spattolavo, poi lo spegnevo, guardavo la televisione e cercavo di far passare i dolori. Perché quello che ho passato io non l'avevo nessuno. Tu pensa, mi hanno operato il giorno 20, a oggi sono esattamente 25 giorni che mi sono operato. E ancora poi i dolori ce li ho. O quando mi inchino con le gambe giustamente. Ma niente, sentire queste cose qua, cioè, ma carità, non le vanno ancora bene, e io dovrei comprare altre roba, no, assolutamente, mi basta quello che ho, forse anche troppo, non le vanno la pena per la 27, giusto come dici tu, al 100, se non c'è nessuno, prego tutta buonanotte, e avanti Roberto. Ehi, vai tu, altro che stiamo manipolizzando noi. Capo, fai un attimo che sono al telefono, due secondi. Ehi, a poi se inutili, io vabbè, non è che stavo entrando molto, ero tanto tempo perché non entravo, l'anno scorso che c'era il Covid, un pochettino siamo entrati, c'era un po' più di gente ripopolata, ma non c'è proprio nessuno, molta gente non sta neanche entrando, infatti molte volte accendo la sera, io accendo sempre come esco dall'officina e ci avrei detto se c'è qualcuno, ma sto notando che ce n'è ancora meno di prima di gente. Adesso mi sto innescando, ma non sento neanche più a Gianni, qualche volta che ho provato, ma perché sta innescando qua? Gianni, doppio 1 non ho più sentito. Ma 10 minuti poi è andato a portare il cane, infatti ho detto anche io rimango 10 minuti, che sono più di 10 minuti adesso, perché devo andare a mangiare. Infatti adesso vi saluto a tutti e due, è sempre un piacere ascoltarvi, Antonio e Tonino, dai, avremo modo di sentirci prossimamente. Ciao a tutti e auguroni per il messa in coso, in guarigione, Tonino, ci sentiamo al prossimo. Ti ringrazio, buon carica batteria a te, guardia familiare, ci sentiamo alla prossima, ciao, stai bene, grazie anche mio, avanti a tutti. Ciao Robert, ci sentiamo alle prossimine, ciao ciao. Cavolo, mi sta arrivando più forte Tony, come mai? Cosa hai fatto? Nulla, io sono lì sul guaratino, non ho niente, nulla, nulla, nulla. Un po' dico che arrivo passo, un po' che io sono tutto il giorno anche il microfono a fare, il suo originale del baracchino. Aspetta un po'. Ma il segnale sei buono, cavolo. Quanto sei arrivato? Sei oltre. Sei quasi 9:20, sei. C'ho la macchina a potenza per il baracchino, e qui è andato, io ci va. Dico la verità. Non altro. No, è buono, è buono. È buono, cavolo. Sempre quell'antenna c'hai, o ne hai qualcun'altra? Ho sempre quell'antenna tu, c'ho la matova 5 che è tutta smontata, non la posso più usare perché sto male, capito? È stato detto tutto con fa. Scappa gappa. Dovrei piazzarla. Ma dovrei fare un bel po' di lavoretto, perché ho fatto tipo una voliera, praticamente ho tutta la rete fino in alto, perché i cani mi avevano invito di saltare e uscire pure e giocare con i cani. Allora mi devo prendere scappa, allora ho tutto chiuso. Morello, Morellica. Allora. Vabbè, niente, io oggi da poco fa invece c'è stato anche due, perché ripeto, ho finito, ho messo il pollo al forno. E poi ho cenato, perché c'è una parlo un po' in TV e poi invece sono andato in cameraretto. Adesso c'è qualche uno. Ho acceso la cinta questo nel tempo. Che difficile che io, ma tu che vado a cena non c'è mai nessuno a quest'ora. No, già ci siamo qualche volta, già. Forte ti sto arrivando, Tony. Prova. 1 e 3, prova. Tu sei sul 3 di 9:30. E non ti sciogliere anche perché non ce l'ho più carino, fatevi una truccia. È un orgoglio, ma cosa, non ti preoccupare, Tony. Io adesso la mia stazione come adesso mi è fatta una pena, ma purtroppo posso farci niente, non ce la faccio più. Devo aspettare. Sto bene e faccio altro potere. Gabba. Dai, piano piano. Amata di questo coso troppo curiciuto. Se no, roba di garore mi chiude. E cosa? Il bambino. Oh. E una ventolina non ce l'hai messa. Che cosa? Una ventolina per raffreddare. Dice casi, boh. Ok. Io domani ci dovrei prendere per comprare qualche cosa. Ho delle ventole che avevo recuperato dai compiti vecchi, della scuola, eccetera. Funziona 12 volt, 3 piazze 2 o 3 e faccio raffreddamento. Ma questo ha bisogno di scaldare, ha bisogno. Moto bicicletta. Puoi butti all'altro, ma a me non mi butti. Ecco, io mi sposto un attimino che c'è la luce di fuori e chiudo anche la porta. Dai, ci vediamo dopo. Cappa, ciao Tony. Ciao. Ma morirò, ma moretto. Andiamo, che è? Va freddo l'antenna, mi... Serve. C'è freddo, l'antenna scaldando un po'. Comunque, occhio, quel cubo ti prende anche il pistolino, mio occhio, anzi. Qui c'è a posto, i nomi. Ma vero, comunque c'è... guarda, l'ho messo, controlla su Facebook. L'ho messo il link. Dice che il Covid colpisce anche il mangaglio. E cos'è, non arretta più? Non si impenna più. non è muore, non è muore. Chiappa, vabbè, cambio cosa, in obbligo, no, mamma mia. Tanto io finisco di cenare. Ehi, ok, dai. Sono tutto caldo.